Marco, Ciao. allora buonasera prima Ciao, di tutto. buonasera. Allora, eccoci qua. Vabbè, noi stiamo facendo questo libro dei fumetti e testi che sarebbe, vabbè, per il 25ennale di Genova, bla bla bla, come ti dicevo, e volevamo riprendere quel ragionamento che avevamo fatto insieme per il mio libro, che poi ho coinvolto anche Tony. Ora vi presento Marco, Tony Marco, perché ci Ciao. interessa. Perché pensiamo che sia una roba che va di nuovo, no? Un pochettino affrontato questo discorso io l'avevo chiamato il cambio di paradigma, no? Però qual è stata la trasformazione, la vera trasformazione che c'è stato in questo quarto di secolo da Poste Genova in poi riguardo i meccanismi, come li vogliamo chiamare, repressivi o giusti. I meccanismi della giustizia più che repressivi, perché altrimenti poi uno sembra che sta sempre a parlare da dicotomia, repressione, antagonismo, quando invece è un po' più complesso, secondo me. Poi non so, Tony, parla anche tu. Sì, ma intanto vabbè, cioè, confermo che un po' l'intenzione è quella. Io avevo un pochino più forse focalizzato su due elementi. Uno un po' diciamo, la fabbrica del reato che si è venuta a creare negli ultimi anni, che mi sembra un elemento fondamentale da approfondire un pochino e con chi meglio se non con te questo argomento, perché ogni occasione è buona per inventarsi un nuovo reato. Ogni tanto mia moglie, che fa il tuo stesso mestiere, fa la battuta: vabbè, adesso ne hanno fatto un'altra e si inventano l'ennesimo reato, anche se ce ne sono già 18 per perseguire quello. E quindi questa cosa mi è sembrata molto interessante, soprattutto con l'ultimo governo che si è proprio allargato le braccia su questa questione. L'altra, forse dopo boh, 50 anni, mi viene da dire, di emergenza, forse dovremmo smettere di parlare di emergenza, perché è diventato un po' È il sistema. il sistema penale per definizione, quello del passaggio al nemico, della giustizia come giustizia del nemico, se possiamo riassumerla con un titolo. Se volete, c'è, come dire, la rottura teorica, dottrinaria, quasi epistemologica, la consuma soprattutto quella vicenda che si è in qualche modo consolidata intorno all'idea del diritto penale cosiddetto minimo, cioè l'idea che la legislazione penale dovesse riguardare esclusivamente la offesa a valori giuridici di primaria importanza e che dovesse essere ridotta all'osso praticamente tutta la normazione in tema di fattispecie incriminatrici. Questa idea, che è un'idea poi che ha le sue radici soprattutto nel riformismo democratico. Parliamo da Luigi Ferrajoli fino poi a un'altra serie di illustrissimi giuristi e studiosi del diritto. In qualche modo ha attraversato settori anche piuttosto, come dire, importanti del dibattito in tema di giustizia in questo paese. Qual è il paradosso? È che proprio alcuni di quei settori che erano più disponibili a considerare, sebbene solo dal punto di vista del dibattito, la necessità di arrivare appunto a un sistema penale improntato ad una riduzione progressiva di tutta il peso, il carico appunto delle fattispecie incriminatrici, hanno progressivamente abdicato a questa idea, a questo elemento di programma. Quindi è vero che nell'ultimo periodo, caratterizzato dal governo della destra, eccetera, eccetera, c'è stata una moltiplicazione dei reati, delle aggravanti, diciamo, di tutta una serie di dispositivi che portano poi a subire in maniera particolarmente pesante il processo penale come strumento di non solo di repressione, ma proprio di controllo, di orientamento delle condotte. Ma anche i governi precedenti non hanno mancato di intervenire sul campo della cosiddetta sicurezza, perché politicamente Il problema, la questione della sicurezza è stata interpretata prima di tutto come elemento caratterizzante, in qualche modo vincente per le competizioni elettorali. E poi soprattutto è stato, come dire, è stato pensato, è stato agitato come elemento legato esclusivamente alla sicurezza in termini appunto di polizia, controllo, condotte, non come sicurezza sociale. Cioè, è vero che la sicurezza è il problema che soprattutto nelle grandi metropoli in qualche modo orienta, diciamo, il dibattito, la percezione, no? Quante volte abbiamo letto nel corso degli ultimi anni che sostanzialmente, dal punto di vista delle statistiche, quelle pubblicate dal Ministero dell'Interno, i reati più gravi sono stati progressivamente affrontati e sono stati verificati come fattispecie in diminuzione. Quindi, se prima in una città come Roma, sto facendo un esempio, c'erano 120 omicidi l'anno, adesso ce ne sono 10, 15. Qual è la questione? È che dal punto di vista dei reati cosiddetti predatori, cioè quelli che purtroppo colpiscono la persona che va a ritirare la pensione, l'anziano che dentro casa viene raggirato da quello che gli dice che deve dare dei soldi perché altrimenti il nipote o un prossimo congiunto subirà sequestri, multe, eccetera. Questo tipo di reato viene vissuto come, diciamo, campanello d'allarme sul piano della sicurezza, e la sicurezza viene declinata con questa specifica cifra, cioè il fatto che la criminalità è in aumento, e non è vero, e l'unico modo per poter rispondere alla domanda di sicurezza, che diventa una domanda, come dire, che ha una sua caratterizzazione politica, è quello di aumentare appunto le fattispecie incriminatrici e le sanzioni collegate. Questo per tornare a quello che dicevo inizialmente, che cioè anche lo stesso pensiero, diciamo, dei settori più avanzati si è trovato in difficoltà a fronte di una gestione politica a tema della sicurezza che non ha particolarmente trovato delle differenze tra governi di centrodestra e di centrosinistra. Un esempio per tutti, il DASPO, che è una delle misure più odiose. La prima introduzione del DASPO dal punto di vista sociale avviene col decreto Orlando Minniti, e quindi poi da lì c'è tutta la cascata successiva fino ad arrivare a queste schifezze del governo Meloni. Sì, ma infatti non ne facciamo una questione di colore di governo. Noi anche le Assolutamente. scorse volte abbiamo proprio visto e tracciato un po' questo filo rosso di vergogna in questo caso rispetto a come dagli anni 70 in avanti questo paradigma è stato un po' si è un po' evoluto su quello che dicevi tu. Quindi potremmo anche un po', non dico chiudere, però dire, invece di dare delle risposte, come giusto che sia, invece dal punto di vista sociale, di sicurezza sociale, di garanzie sociali, la risposta viene data sul piano di tipo securitario e giudiziario. Dal welfare al warfare, cioè dalla possibilità di destinare la spesa pubblica nella individuazione, diciamo, degli strumenti che ti consentono di affermare il principio della sicurezza sociale, al sistema di guerra che diventa poi quello del taglio, della destinazione delle risorse alla sicurezza, agli apparati di polizia. Cioè, per esempio, il numero di appartenenti alle forze dell'ordine che c'è in Italia non è paragonabile a quello di altri paesi europei come proporzione rispetto al numero degli abitanti. Perché? Perché c'è evidentemente una scelta politica che è quella di privilegiare la sicurezza dal punto di vista militare. Tutto qua. Guarda, poi mo non è il momento per affrontarlo. Oltretutto, il decreto Caivano, le zone rosse prefettizie hanno fatto aumentare in maniera veramente, che sta creando anche un problema per quanto riguarda minori, minori non accompagnati. C'è tutta quanta questa, l'aumento appunto dei neomaggiorenni carcerati. Cioè, anche quella roba là sta producendo un effetto a catena drammatico, in questo caso nei giovanissimi. Però questo appunto è un altro caso ancora. Quindi appunto Sì, uscire. forse andando proprio in quel ragionamento che stava facendo Marco, addirittura guardando le riforme, guardando l'abolizione, chiamiamo proprio l'abolizione del tribunale per i minorenni, si va proprio tutto in quella direzione, si toglie Esatto. tutto dal sistema delle tutele, dal sistema delle garanzie, dal sistema di accompagnamento, anche in ambito giudiziario, per poi arrivare al... Io l'avevo definito appunto, non io, però diritto penale del nemico, ma qua diritto penale di guerra, cioè proprio dello stato di guerra. La definizione è corretta. Se consideri che le risorse che dovrebbero in qualche modo essere finalizzate a appunto creare un sistema, no? Che è un sistema di accompagnamento dall'abbandono scolastico e quindi dalla possibilità di lavorare per comunque favorire la socializzazione all'interno del percorso scolastico, si è passati appunto alle misure per cui c'è, come dire, è l'aspetto punitivo quello che prevale, non più l'aspetto della socializzazione, della risocializzazione, laddove ci siano condotte che comunque possono essere valutate come penalmente rilevanti, ma è proprio l'aspetto della punizione. È un cambio di paradigma, cioè quello che si è verificato in Italia negli ultimi 25 anni, a fronte, diciamo, anche di idee, di dibattito, di riflessione molto avanzata, almeno in alcuni punti. È proprio un rovesciamento completo. E questo, rispetto a quello che dicevo con Fabrizio quando ci siamo sentiti per il libro che ha fatto, fa il paio anche con la mutazione genetica, antropologica, voglio dire, di chi deve decidere. Cioè, il mio interlocutore, quello che io mi trovo davanti adesso, dopo 33 anni che faccio questa professione, è proprio diverso da quello con cui io facevo i conti quando ho iniziato a fare l'avvocato. Perché quel magistrato non era isolato, capito? Non era un Mia moglie me soggetto. lo dice tutti i giorni, mi dice la stessa frase tutti i giorni È così, che mi stai è così. dicendo tu. C'è stato un cambio proprio Sì. antropologico con chi si confronta in tribunale. È così. Ma qualche mio amico giudice mi racconta, diciamo, dei tirocinanti che devono accompagnare, no, il loro percorso di ingresso nella carriera. Per cui mi dice: io mi trovo davanti tante volte da specie di sceriffi, aspiranti sceriffi, cioè persone che hanno l'idea che il loro compito è quello di liberare la società dal delitto e quindi dal peccato. È come se ci fosse, appunto, anche qui, no, un ritorno ad una riflessione che è veramente datata da centinaia di anni quasi. Cioè, il mio compito come magistrato non è quello di capire, di avere un approccio, voglio dire, sociale. Il mio compito è quello di dire: questo è un delinquente e quindi questo deve essere sanzionato per quello che ha fatto. E io vivo la mia realtà professionale in modo del tutto separato dall'aspetto sociale. E questa è la cosa più preoccupante. Come si Grazie. inserisce secondo te, poi lascio questo zitto, Bizio, Ma no, parla, parla. si inserisce secondo te tutta la parte che comunque ha preso ultimamente più piede di repressione preventiva, se si inserisce in senso intellettuale anche nella riforma della giustizia, in questo cambiamento della giustizia, si inserisce ed è, come dire, un lato più politico della situazione in mano a chi ci sta governando. È il lato dell'emergenza di cui parlavi te, cioè l'emergenza è un criterio di governo quotidiano. Allora, l'idea della misura di prevenzione è un'idea tipicamente autoritaria, cioè le misure di prevenzione che erano originariamente previste nel nostro ordinamento erano misure di prevenzione che venivano dalla legislazione del regime fascista. La Corte Costituzionale inizialmente le ritenne compatibili col nuovo ordinamento istituzionale. Questa compatibilità si è poi progressivamente affinata attraverso diciamo, la necessità di contrastare la criminalità organizzata con la misura di prevenzione. E quindi, in nome dell'emergenza della lotta contro la criminalità organizzata, Il sistema delle misure di prevenzione si è progressivamente ampliato andando a toccare soggetti e contesti che con la criminalità organizzata non avevano nulla a che vedere. Basta considerare che, per esempio, tutta la legislazione che fa capo al cosiddetto codice antimafia, che poi è il codice che disciplina l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ha trovato poi modo di essere applicato anche nei confronti dei soggetti cosiddetti antagonisti. Per esempio, qui a Roma hanno applicato in almeno 4-5 occasioni le misure di prevenzione personali a compagni che erano espressione del movimento di lotta per la casa. E quindi in relazione a una serie di comportamenti, di fatti in forza dei quali questi erano stati denunciati per una serie di occupazioni, lotte collegate appunto al diritto all'abitare, nei confronti dei presunti esponenti, diciamo, di questi movimenti sono state applicate le misure di prevenzione personale. Il DASPO di cui parlavo prima non è nient'altro che una piccola misura di prevenzione, cioè ampliata rispetto al soggetto a cui deve essere applicata, ma con la finalità preventiva di cui parlavamo, che poi non è preventiva nel senso classico del termine, è preventiva dal punto di vista della necessità di sottoporre quel soggetto a un controllo, diciamo un dispositivo che ha evidentemente un contenuto afflittivo, come fosse una pena proprio, comminata in esito a un procedimento penale. Allora, mi viene in mente, no? Processo, l'appello del processo di Aschia. Processo stanno l'accusa, no? È associazione a delinquere. A un certo punto, allora, i reati associativi gli anni 90 andavano molto di moda, no? Quindi per quanto riguarda i movimenti era diciamo il blocco con cui cercava di perseguirli. Poi a un certo punto erano spariti perché non funzionavano più, perché dare un reato associativo era complicato, non a caso, no? Il 419 per Genova, no? Devastazione e saccheggio, che ancora ce lo portiamo dietro sistematicamente a seconda dell'area politica, a secondo quello che succede e via dicendo. L'abbiamo visto pure con i Maranza e le manifestazioni post-Covid, eccetera, eccetera. Però ogni tanto, soprattutto per i processi più grandi e più importanti, il reato associativo ci riprovano. O sbaglio? Allora, quello di Asca è l'esempio più, come dire, emblematico, più noto negli ultimi tempi. Calcola che, per esempio, per tornare al movimento di lotta per la casa, noi qui a Roma ci abbiamo avuto Esatto. due occasioni almeno in cui hanno contestato l'associazione a delinquere ai compagni delle Sì. strutture di lotta per la casa. Quindi, perché questo? Perché è anche una contestazione funzionale, al di là, diciamo, del possibile esito sanzionatorio, è una contestazione funzionale alla possibilità di attivare nel corso delle indagini strumenti come le intercettazioni telefoniche. E quindi avere, attraverso la contestazione dell'associazione a delinquere, così come è avvenuto a Torino, i compagni di Asca, i compagni della Val di Susa, avere, come dire, gli strumenti più invasivi per poter attivare anche, diciamo, provocazioni, come dire, letture di natura criminogena rispetto ai movimenti di massa. È tutto funzionale, cioè non, è un meccanismo noto. Qual è il problema? È che tu non puoi dare l'associazione a delinquere ad una struttura che ha, come dire, una sua rilevanza che non attiene semplicemente a eventuali comportamenti illeciti, cioè l'associazione a delinquere dovrebbe essere il gruppo di persone che si organizza con quello scopo precipuo di commettere reati che sono all'interno di un certo programma criminoso. Viceversa, chi lotta per la casa, sì, può occupare pure la casa, ma fa manifestazioni sotto gli enti locali per ottenere l'assegnazione, per ottenere il riconoscimento delle occupazioni, cioè c'ha una dimensione pubblica legale che è incompatibile. L'ultimo che io ho fatto è, per esempio, la contestazione d'associazione a delinquere per i sindacati di base nella logistica su al nord, quindi tra Piacenza, Cremona, Modena, eccetera. E che diceva l'accusa? L'accusa mutuava le ragioni, diciamo, dei padroni. Cioè, siccome le lotte sulla logistica mettono in crisi la redditività economica di chi svolge la funzione di padrone della logistica, tu praticamente hai costruito nelle lotte un meccanismo di natura associativa che ha quello scopo e soprattutto espone al rischio di ricadute economiche negative gli imprenditori che lavorano nel settore della logistica. Una cosa assurda, giuridicamente, politicamente, costituzionalmente, insomma, è come se noi dovessimo tornare all'autunno caldo e dovessimo dire che chi ha lottato e alla fine ha ottenuto, anche se non era quello certo l'obiettivo, lo statuto dei lavoratori, l'ha fatto attraverso un meccanismo di natura associativa, illegale, perché i blocchi, perché le manifestazioni, perché gli scontri che la polizia in realtà avevano questa finalità. È un meccanismo che è di stampo chiaramente autoritario, che nega la legittimità del conflitto sociale, capito? Chi muove il conflitto lo muove dentro una prospettiva evidentemente di natura illecita, perché si associa allo scopo di commettere quel tipo di delitti. Che mi pare che un po' il tema è proprio questo, no? Negare Certo. ogni forma di conflitto che non sia l'alza la mano, perché siamo un po' a questo, no? Vale che Che non ormai sia scheda elettorale. che non sia la scheda elettorale, anche più che giusto. Tony, tu hai altro? Sì, volevo un po', era un Vai. po' a conferma in questa cosa, nel senso che mi sembrava quasi un po' un grande schema, un grande filo che continuava, questo inserimento dell'articolo 11 bis nel vecchio decreto di sicurezza, quello del 78, risponde da una parte, come sta dicendo Marco, appunto alla necessità emergenziale, ma fa proprio, andando a riprendere quasi teoricamente quello strumento lì, ne fa uno strumento di sistema, ne fa proprio, dice, io continuo a lavorare, riprendo in mano quel modello Certo. culturale di emergenza e ne faccio un modello normale di applicazione, quindi con il nuovo tipo di nuovo fermo preventivo. Certo, ma tu pensa al paradosso. Allora, secondo me, cioè, la legge reale, metà anni 70, per contrastare, diciamo, la forza dei movimenti di massa, si introducono tutte disposizioni che, dal punto di vista, diciamo, dei destinatari, colpiscono i soggetti che agitano le piazze, quelli che organizzano appunto le lotte sociali in fabbrica. Anche lì si prevedevano dei dispositivi di misure di prevenzione, il doppio binario, per cui allora si prevedeva appunto una impunità per l'uso delle armi da parte di agenti di polizia nel corso di manifestazioni politiche, eccetera, eccetera. La legge reale nasce in quel contesto. Ora, uno storico, non è il mio mestiere, potrebbe dire: ma la situazione è questa, non so se c'è stato un elemento di giustificazione, però sicuramente a fronte di quello sviluppo delle lotte che mettevano in discussione gli aspetti del potere, il quadro istituzionale risponde in quel modo. Ma oggi, a distanza di 50 anni, in una condizione diversa, perché sicuramente chi muove il conflitto non lo muove nella prospettiva della conquista del potere, come potevano essere i soggetti che agitavano all'epoca, no? Le manifestazioni di massa, cioè volevano fare la rivoluzione. Oggi parlare di rivoluzione, di conquista del potere politico, mi sembra un po' complicato. Non è questa, diciamo, nella maturità dei movimenti e dei soggetti che stanno dentro i movimenti, non mi sembra questa la prospettiva, almeno nell'immediato. Eppure tu applichi lo stesso tipo di dispositivo, cioè applichi praticamente gli strumenti di contrasto incostituzionali che già all'epoca furono oggetto di critiche, diciamo, di tutta una serie di questioni che si sollevarono davanti alla Corte Costituzionale, cioè applichi pedissequamente lo stesso tipo di strumento. Ma è evidente che questo nasce da una finalità, che è quella di impedire lo sviluppo appunto dei movimenti di massa, usando lo strumento emergenziale. Non cambia niente, cioè il nocciolo di questo dispositivo è lo stesso, a 50 anni di distanza. Non fa una piega, guarda. Preciso. Tony. Sono d'accordo, no, sono d'accordo, era proprio quello, non è che volevo sentirmelo dire, volevo avere conferma che un po' l'analisi, cioè fossimo in sintonia su questa analisi, che la lettura non fosse una lettura anche tecnica. Se uno lo deve mettere, come dire, più in modo più raffinato, uno su sta cosa ci ragiona e cerca di costruirci sopra anche dei riferimenti precisi. Però, come dire, la sostanza del problema sta qua, non è nulla di diverso, ecco. Va bene, no, io sono sostanzialmente soddisfatto. Sì, no, beh, hai detto un po' tutto quello che, no, che volevamo sentirci dire, però su quello là che appunto puntavamo come analisi. Allora, io l'ultima cosa è che volevo ritornare sulla roba dei minori, eccetera, proprio dell'effetto delle zone rosse prefettizie, che ne parlavo ultimamente, forse la conosci Federica Borlizzi, Mi la pare di pen... sì, mi pare. Eh sì, e, appunto ne parlavo con lei che si occupa di CPR, minori e via dicendo, che c'è una situazione appunto quanto le zone rosse prefettizie abbiano aumentato le espulsioni, il confinamento dentro i CPR, tutta una serie di, anche in assenza di un vero reato o di una condanna poi, perché poi il DASPO è l'assenza della condanna, quello su cui si fonda, creano una situazione quasi esplosiva, di cui non se ne parla affatto perché la maggior parte di questi minori o di questi neomaggiorenni o di sti giovanissimi sono nordafricani, c'è un cazzo da fare, e quindi già questo sposta un po' il piano dell'interesse, però sta creando una vera e propria bomba sociale. Io non so se su questo tu ci avevi un'idea o qualcosa da aggiungere, perché se ne parla poco delle zone rosse prefettizie, però poi alla fine non è che non mettono in campo niente. Tutt'altro. Guarda, io no, su questo tema lavoro poco, devo dire, quindi la questione minorile delle zone sia rosse per questo tipo di comportamenti, però quello che so, ma perché sento poi tanti colleghi che invece su sta cosa, insomma, ci lavorano, si misurano quotidianamente, è che c'è sicuramente questo, diciamo, questa direzione, quella cioè di evitare che quel tipo di risultato che si consegue con questi dispositivi sia un risultato in qualche modo pubblico. Cioè, quello che sta avvenendo e che avviene attraverso, diciamo, questa politica con questi dispositivi è una cosa che passa completamente sotto silenzio. Cioè, in realtà, mentre su altri aspetti tu hai anche modo di misurarti, come dire, con anche soggetti diversi, cioè circuiti che si misurano, lavorano su queste cose. Questi aspetti qui non sono aspetti sui quali c'è grande informazione, perché appunto l'interesse è quello in qualche misura di segretare, di rendere questa vicenda sempre più occulta rispetto alla capacità di fare luce sui risultati di queste politiche. Non è una cosa su cui viaggia grandi, come dire, non ci sono grandi notizie, non c'è un flusso informativo continuo. Ed è questo, secondo me, anche uno degli aspetti di tutta questa politica di determinazione di zone e di comportamenti separati, cioè quello di evitare che ci siano effettivamente, come dire, luoghi in cui tu riesci a ricomporre tutte queste realtà e riesci a capire qual è il risultato di queste politiche. Questo è il problema. Guarda, io convengo con Marco perché io assento, ascolto, come dicevo, in casa. E l'altra cosa che io sono rimasto abbastanza scioccato, non ne avevo contezza, è che con la riforma Cartabia vizio di fatto anche il processo in ambito minorile. Non è più un processo, praticamente non c'è più confronto con in aula, con il giudice, con il pubblico ministero. Non esiste, è cartaceo. E come si dice? C'è un termine tecnico, però non c'è più dibattito in aula, non si vedono mai in aula, è solammente consegna di memorie, tra l'altro limitate Sì. Ma perché il nell'indagine. processo minorile è un processo nel quale l'idea della difesa, a prescindere da questi ultimi sviluppi, negata, cioè tu devi comparire praticamente dicendo sì, è vero, ho fatto questa cosa, mi pento di averla fatta e voglio in qualche misura essere recuperato al consesso civile. E quindi ci sono tutti i percorsi, diciamo, di messa alla prova di queste cose. Ma il processo minorile in realtà non è un processo in cui si esercita il diritto di difesa, si esercita il diritto, come dire, alla correzione dalla parte istituzionale, capito? Questo è il nodo fondamentale. Perfetto, guarda, l'altro abbiamo anche finito il tempo perché comunque l'ha detto pure abbastanza. Tra l'altro aggiungo, io non lo sapevo, ma dentro le carceri minorili, fino a prima di questa riforma, gli agenti della penitenziaria dovevano stare in borghese. Ora stanno di nuovo in divisa all'interno del carcere. E questo cambia, sembra una cazzata, sembra. Però invece non è proprio una cazzata, anche se agli effetti non gli cambia niente al detenuto, però no, è una percezione molto diversa, le stanno a dare un segnale che è un po' differente. Se stai dentro in carcere, ti stanno a dire, ragazzi, questo non è una roba correttiva, è in carcere. O vedi quello che ha la divisa, è in carcere. Sembrano cazzate, però invece sono No, piccoli no, no, no, non ha segnali. solo un effetto simbolico, capito? Ecco, esatto. Grazie Marco, Di grazie ancora. nulla, A grazie a presto. voi. Grazie a te, a Ciao, ci presto. vediamo. Ci sentiamo presto. Ciao, Ciao, ciao, ciao. ciao, Ciao, ciao, grazie, ciao, ciao. ciao.